Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sai, alle volte, alla mezza, mi metto ancora qui alla finestra e guardo di là, verso la bottega, in fondo alla via. Aspetto che tu esca da dietro l'angolo, come facevi sempre, quando tornavi da scuola. Ciao, sono Stefano, abito a Cusago, una piccola cittadina in provincia di Milano, ho 46 anni, una moglie, tre figli e lavoro in un'officina metalmeccanica. In un tiepido pomeriggio autunnale, con la mia nonna, davanti al camino di quella casetta al paesello, a mangiare sorbole e castagne, a sentire storie antiche e leggende dei briganti della Sila o di Jugale. Con quella luce calda che filtra dalle imposte, una pignatta al fuoco e un buon odore di legumi cotti. Sì, se avessi la macchina del tempo vorrei tornare là, a 25 anni fa e a 600 km a sud, a Decollatura, in quel paesino della Presila che mi ha vista nascere, crescere e partire. Cinzia. Se avessi la macchina del tempo vorrei tornare ad una festa di fine maggio, un esame appena passato e una festa che sta per cominciare a casa nostra, da fuori sede. 80 invitati per un appartamento troppo piccolo, la consapevolezza dei privilegi della gioventù. Quella sera, idealmente, anche noi abbiamo sotterrato la nostra bottiglia di Dom Perignon e là ancora giace Emanuele. Al giugno del 1969 vorrei tornare con la macchina del tempo, quando un pomeriggio sono andato a vedere nella mia scuola media gli esiti degli esami. Appena ho capito di essere stato promosso, si mise a piovere di brutto e, incurante di tuoni e fulmini, mi mise a correre felice per un quarto d'ora. Beh, è stato un momento di gloria che probabilmente non si ripeterà più. Massimo. Le 16:11, Radio 24, questo programma si chiama Voi siete qui e noi raccontiamo storie, lo facciamo tutti i giorni e oggi facciamo la stessa cosa. Lo avete sentito dai messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook del programma, che Voi siete qui, Radio 24. Oggi proviamo a fare un gioco che è quello della macchina del tempo, quantomeno delle immagini e del passato personale, insomma, non del passato storico e comune a tutti. Se avessi una macchina del tempo vorreste rivivere quale momento della vostra vita? Proprio una fotografia. Un'immagine nitida e precisa, un pomeriggio, una mattina, quella sera, ero lì, c'era quella persona e feci quella cosa. È una sorta di cartolina del passato, speditevi una cartolina dal vostro passato. Oggi alle 16:11 di un bel giovedì 7 novembre 2013, 349-238-6666 oppure su Facebook, ve l'ho già detto, sul profilo Twitter del programma che Voi siete qui R24 o il mio direttamente che è Matteo Caccia. Sono arrivati altri messaggi ovviamente che parlano di cartoline dal passato. Claudio, luglio del 1990, con addosso un camice di garza verde e una cuffia dello stesso materiale in testa, nel reparto di ostetricia e ginecologia. Guardo mia figlia Elena, è appena nata, con addosso solo un pannolino, muove le gambe e le braccia, gira la testa e si guarda intorno. Immagino che per molti valga l'immagine del figlio appena nato, però se c'è comunque un momento che con un fatto, beh, io ho cominciato come rumorista, ragazzi, non so, Rudy, non so se lo sapevi, con un è il rumore della macchina del tempo, capito? Nel senso che è tipo una specie di risucchio. Se togli la base lo rifaccio. Togli la base. Tornate là, a quel giorno, a quell'ora precisa di quel pezzo della vostra vita. 349-238-6666. Voglio avvisare, è una sorta proprio di warning per tutti quelli che sono molto sensibili, soprattutto ai legami con le nonne. Per ascoltare questa puntata vi servirà un fazzoletto, probabilmente. E se avete le lacrime in tasca, come diceva mia nonna, forse ve ne serviranno due. Perché Stefano fa il gioco, lancia il gioco con la sua storia, che buttiamo lì oggi, quello della macchina del tempo, e va in un punto ben preciso, va in un posto ben preciso e in compagnia di una persona ben precisa, che è la sua nonna. Ho vissuto la mia infanzia nel mondo delle favole, in una terra sincera, amato e coccolato da due esseri straordinari, i miei nonni. Poi la vita ci ha diviso e siamo riusciti a ritrovarci solo di quando in quando. È stato durante una di queste gite, quando avevo già moglie e figlie, che è successo quello che è successo. Era una calda giornata di estate, subito dopo uno di quei pranzi a base di tortellini e arrosti come solo in Romagna si sa fare. Io ero pigramente affacciato alla finestra della cucina, quella con vista sulla mitica via d'Azeglio, teatro dei miei giochi di bambino, quando all'improvviso mi raggiunse mia nonna. E Imola è una cittadina dell'Emilia Romagna, appena sotto Bologna, ci torno qualche volta, di fisso ci torno tutti i 24 marzo di tutti gli anni, perché è l'anniversario della morte di mio nonno, la prima, e quindi torno a trovarli al cimitero. Abbiamo chiacchierato un po' e poi dopo un attimo di silenzio lei mi dice: sai, a volte alla mezza mi metto ancora qui alla finestra e guardo di là, verso la bottega, in fondo alla via. Ah sì? Le rispondo senza dare troppo peso alle parole che ha appena detto. E perché? Aggiungo. E lei, con poche parole che però pesano come macigni, pronunciate con la malinconia di mille anni di attesa, mi risponde: aspetto che tu esca da dietro l'angolo, come facevi sempre quando tornavi da scuola. E poi, come nulla fosse, se ne va e mi lascia lì, senza fiato, in una vampa di calore che blocca ogni mia azione e pensiero. Ora vivo a Cusago, paese vicino a Rho, e abito in una questa piccola città vicino al posto in cui lavoro. Dopo un attimo però io rivivo quella scena reale, come se fossi lì in quel preciso momento, ma molti anni prima. Io che esco dalla scuola di Via Tommaso Campanella insieme ai miei amici, dai nomi impronunciabili. E poi corro verso casa, distante poche centinaia di metri. Sulle spalle quelle cartelle di una volta che sembravano una 24 ore, un po' come portare uno scatolone sulla schiena. Il grembiolino azzurro e anche il fiocco, bianco per giunta. Ero felice, come solo un bambino felice può essere. Ed eccola là, appena dietro l'angolo, alla finestra, che saluta e sorride. E con gli occhi mi dice: ven lillo, cle pronda magnè. Mi trovo bene perché abbiamo un sacco di cose in comune. Chi non ha mai detto una frase del genere, alzi la mano. Tutti nelle nostre relazioni d'amore, d'amicizia, cerchiamo qualcosa che ci accomuni agli altri. A volte siamo anche disposti a imporci delle forzature, pur di compiacere chi abbiamo davanti. Siamo così affamati di nuove storie che capita di mettere da parte quelle vecchie. La nostra vita è intessuta di rapporti con gli altri e noi siamo legati alle persone che fanno parte del nostro mondo da diversi fili. È per questo che quando riaffiora un piccolo dettaglio che ci lega a qualcuno, si realizza come un piccolo miracolo, come una macchina del tempo. Quel piccolo dettaglio diventa poi il vero motore di un legame, rafforza un'amicizia e ci rende vicine persone che altrimenti non lo sarebbero. Tutti i nostri fili sono dei frammenti di storia che hanno un significato profondo per chi le ha vissute. Ma quante volte ce ne dimentichiamo però? Quando si va al liceo, quelli sono anni in cui bisogna fare nuove esperienze. E io volevo essere indipendente. Così capitava che al pomeriggio, invece di tornare a casa a Romentino, mi fermassi a Novara a casa di Marco, un amico che aveva un paio d'anni più di me, che avevo conosciuto quando facevo gli spettacoli a scuola. Se i suoi non c'erano, ci preparavamo qualcosa da mangiare, studiavamo un po' e poi bivaccavamo in tavernetta. Se invece sua madre era a casa, mi mangiavo un panino al bar e poi lo raggiungevo subito dopo. Quando poi lo raggiungevo, come segno di riconoscimento, io davo due colpi rapidi e uno più lungo al campanello. Lui capiva che ero io, mi apriva e il pomeriggio passava. Oltre a una madre però, Marco aveva anche una sorella, Antonella. Lei aveva la mia età, però faceva il classico. A lei era proibito entrare in tavernetta con noi e quindi per reazione ci ignorava. Ma dal giorno che Marco si era messo con una, la tavernetta era diventata proibita anche per me, quindi scendevano loro due e io me ne stavo in cucina a studiare. Per solidarietà fra esclusi dalla tavernetta, io e Antonella abbiamo cominciato a chiacchierare. Io lì ho smesso di considerarla solo la sorella dell'amico e lei ha smesso di considerarmi solo l'amico del fratello. Tutti i giorni arrivavo, davo due colpi rapidi e uno lungo al campanello, stavo con Marco ignorando Antonella fino a quando lui non veniva raggiunto dalla sua bella e si infilava con lei in tavernetta. A quel punto Antonella ricompariva dalla sua camera e passavamo il pomeriggio insieme. Quando ho realizzato che preferivo la sua compagnia a quella di suo fratello, gliel'ho detto. Lei era contenta. Quando si va al liceo sono anni in cui si vogliono fare delle nuove esperienze e noi ci eravamo innamorati. ma la nostra nuova condizione di innamorati sollevava delle questioni nuove da affrontare. Ad esempio, avrei dovuto dirlo a Marco, anche perché ora io non volevo più passare il tempo con lui, ma con sua sorella. E avrei dovuto dirlo anche a sua madre, che mi conosceva, mi vedeva girare per casa da un po', e in più era una professoressa del mio liceo. Così, dopo un mese di segreti, che mi era parso un'eternità, un giorno dico a Marco che, anche se c'è sua madre, io vorrei pranzare a casa con loro. Quel giorno, a tavola, mangio poco e sudo molto. Quando tutti hanno finito, io dico che nessuno se la prenda, ma io e Antonella ci siamo innamorati. Marco è confuso, non ha ancora deciso se sentirsi tradito o passarci sopra. Io sono stanchissimo per lo sforzo. Antonella e la mamma si mettono a ridere. Quando si fa il liceo, si vogliono fare nuove esperienze e io quel giorno volevo provare a dichiararmi alla famiglia. Quello è stato un po' l'apice della storia tra me e Antonella. In realtà mi piaceva di più una mia compagna di classe e Antonella aveva un pretendente al classico. Ma tutte le volte che sento un clacson o una trombetta di un bambino al parco o un campanello di bicicletta che fanno due squilli ravvicinati e uno più lungo, ripenso ad Antonella, a Marco e a quel giorno in cui mi sono dichiarato. I've never seen anyone so free. You color inside and outside the lines. What's going on in your great big mind? What's going on in your great big mind? What's going on in your great big mind? What's going on? Su una riva, è in riva al mare o in riva a un fiume, Stefano, nella foto che ci ha mandato e che, come al solito, è pubblicata sul nostro sito alla pagina di Voi Siete Qui, del nostro programma, che è perfetto, adesso si è ricaricata e quindi ho perso la foto, rieccolo. Hai gli occhiali da sole in testa, una t-shirt di quelle senza infamia né lode, insomma, sono proprio quel gruppo di t-shirt che uno si tiene per anni e non smette mai di portarle e non le butta via, anche se in realtà qualcuno prima o poi dovrebbe farlo, ma soprattutto tiene in mano una canna da pesca, quindi è appunto o al mare o su un fiume e sta cercando di pigliare qualche pesce. Pronto Stefano? Ciao. Come stai? Dai, non c'è mare. Anche se dal tono di voce effettivamente, Stefano, mi sembri un po' giù. No, io per te stai su. Sono sempre così. Ah, ok, perfetto, perfetto. No, perché su, è sempre su, Stefano, sempre. Sì. Dove sei con sta canna da pesca in mano? Sono in Sardegna, davanti alla spiaggetta che c'è nella casa che ho in Sardegna, la casa di mia mamma in Sardegna, e sono lì che sto cercando di pescare quattro pesciolini per i miei figli. Ma cosa si pesca su una spiaggia? Non si pesca niente, si passa un'oretta insieme ai figli a giocherellare e poco più. In che zona è della Sardegna la casa? Nella zona di vicino a Castelsardo, nella baia di Badesi, il paesotto si chiama Valle d'Oria. Quindi è nord-ovest della Sardegna. Nord-ovest. Senti, torniamo invece a Imola, giusto? Imola. Città proprio? Città, sì. E tu hai abitato lì fino a che età? Fino agli 8-9 anni, su per giù, terza elementare, via. Fatto la terza elementare, fatti gli esami di terza elementare, sono tornato a Milano. Senti, i tuoi nonni non ci sono più né uno né l'altra? No. Da tanto tempo? Beh, mio nonno è morto nel 99, 24 marzo del 99, invece mia nonna è il 15 settembre del 2003, quindi qualche anno è passato, sì. Senti, è stata la prima volta questa che ti è capitata di, visto che dalla tua storia poi abbiamo deciso di provare a spedirci delle cartoline dal nostro passato, perché la tua è una cartolina precisissima di te che esci da scuola, hai lo zaino sulle spalle, quegli zaini, una scatola come dici tu, avere sulla schiena. Si usavano sti cosi tremendi. Sì, me li ricordo. Tu di che anno sei? Scusa, sei un po' più grande di me tu. Sono del 67, sì. Ok, 67. Sì, io sono del 75, però anche noi li usavamo, quegli scatoloni con i due ganci posteriori. Bravo. Che si infilavano nella proprio quelle lì, esatto. Cioè la pateletta si infilava. Vabbè, se provo a cercare i nomi di un elemento di una borsa è finita, ragazzi, non ne usciamo più, quindi avete capito che borse sono. Insomma, quella cartolina lì è proprio lucidissima. Ti è capitato altre volte? Ti è capitato tramite tua nonna, ad esempio? Sì, spesso e volentieri. Non mi è mai capitato di scrivere un racconto, questo sì, è la prima volta e non so come mi è venuta fuori, però cioè la prima volta che scrivi una storia. Sì, la prima volta. Però nitidi nella mia mente ce ne sono tanti di momenti. Certo. Lo immagino, scusami, toglimi una curiosità. quando ti, perché siccome sai che noi siamo in ritardo, no? Con la, chiaramente con la ricezione delle storie, le leggiamo tutte insieme, poi facciamo le puntate spesso a mesi di distanza. Quando ti è venuto in mente? Hai sentito una storia particolare o è un giorno eri a casa da solo e ti sei messo a scrivere? No, lavoro anche in una delle aziende del nostro gruppo e anche nella zona di Cremona, e tornando a casa da quell'azienda che gestisco anche in quell'area, ascoltavo le storie come ascolto molto spesso per radio, e ce n'era una particolare, adesso non ricordo sinceramente il quale storia, ti giuro proprio non lo ricordo, però mi aveva colpito, era una bella storia, ho detto, che bella storia. Che lavoro fa esattamente, Stefano, me lo ricordi? Dirigo un'azienda metalmeccanica, lavoriamo in particolare di forgiati di medio grandi dimensioni, noi facciamo le lavorazioni meccaniche, torni, frese, forature. È incredibile, così. Perché quando le persone come te fanno lavori come questi non dicono mai esattamente che cosa faccia, cioè fate che cosa? Delle ruote, delle rotelle, dei pezzi facciamo di... delle turbine, facciamo delle turbine, sì, dei reattori facciamo. Addirittura, sì. Ma è un'azienda grossa quindi, o quantomeno fa roba grossa. Fa roba grossa, via. Azienda grossa è una parola grossa, ma che facciamo roba grossa si può dire. Sì. E come va? E come va in questo periodo? È difficile per tutti? Oppure? Difficile per tutti, ma insomma tutto sommato ce la stiamo ancora cavando. No? Ma scusami, ascoltate la radio in azienda? Mai, l'ascolto io quando sono avanti e indietro. Ok, no, perché mi immaginavo le turbine. E aspetta, abbassa un attimo che c'è Barisoni. Cosa sta dicendo Barisoni? Stefano, ti ringrazio molto per la chiacchierata e il racconto che, insomma, per tutti quelli che hanno avuto un rapporto particolare con un anno, al di là dell'idea della macchina del tempo e del tornare in un momento preciso della propria vita, al di là di quello, credo che chiunque ha avuto un rapporto particolare con la nonna non sia rimasto completamente asciutto da questa storia, quindi ti ringrazio molto. Grazie a te. In bocca al lupo. Ciao, ciao Stefano. Ciao ciao ciao. Ecco, io ringrazio quelli che... Niente, praticamente è nata una teoria sul rumore della macchina del tempo. Tra l'altro, come se ci fosse un rumore della macchina del tempo. Uno mi dice, il rumore che fai della macchina del tempo è identico al risucchio dei bagni degli aerei. Paolo D'Alecco. Che è un rumore insopportabile. Io ammetto che io mi tappo le orecchie dopo che ho tirato l'acqua sull'aereo. Mi sembra che il rumore del ferro... Mi sembra il rumore del ferro da stiro. Altro che la macchina del tempo. Certo, Marco, come no, scusami, effettivamente adesso cercherò di capire qual è esattamente quella della macchina del tempo e poi lo riportiamo in diretta. Vorrei tornare alla sala parto gialla dove sono nati entrambi i miei figli. Che emozione, Ala. Ala. Sarà per Alessandra? Certo, perché Ale è maschio, Ala è femmina. Agosto 92, il mio primo bacio aspettato per ben 7 anni e sono riuscita a darlo proprio a lui, Elisa. A lui chi? Vorrei tornare all'estate del 1983 durante la trebbiatura del grano e immerso nel grano raccolto ancora caldo dal sole. Federico, città di Castello. C'è della poesia oggi che aleggia nell'aria. Vorrei tornare a Porto Rose in Slovenia nell'85. Andavo a prendere il mio amore con la mia Fiat 124 coupé. È durato poco, ma ho ricordi bellissimi. Le rivivo ancora con le canzoni e i profumi che mi sono rimasti. La donna mai più vista, mi scrive. Abbiamo raccontato delle piccole Madeleine di immagini e di storie legate alla vostra vita e a piccole cartoline del vostro passato. E chiudiamo. Ringraziamo Stefano per avercelo permesso, ma grazie anche a Tiziano Bonini, a Fabio Cantadori e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Stefano, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.